the phone booth. It's a one across a whore. If you don't answer, I'll just bring it on the wall. I know he's there, but I just try to crawl. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? All those things she said I told you to ignore. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS L'Onda Veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Critical Project. Allora, le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese zona delle Lessinie e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Radio RCS, la radio che spacca! Oh yeah! Passiamo ora dal rock inglese degli anni 70 alla new wave americana e inglese di fine 70 ed inizio 80. Primo brano era di Blondie, band newyorkese guidata da Debbie Harry e Chris Stein, che abbiamo ascoltato nel brano Hanging on a Telephone del 1978 dal disco Parallel Lines. Sono passati 32 anni da questo disco, ma la musica di Blondie ha ancora i suoi fan. Che ne dite? 32 anni e non sentirli, no? Certo. Hanno fatto un sacco di singoli, quindi insomma se lo meritano dopo tutto. Hanno anche fatto una reunion ultimamente, quindi un sacco di cappelloni saranno stati contenti. questo pezzo era tanto... faceva tanto chitarriero, sto pezzo. Era bello. Vero, è vero. Non è male. Più di un attimo sospeso è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase? Allora, sul significato del titolo di questo album ci sono tantissime versioni. Io ho dato la mia... E, ascoltando l'album ognuno di noi può percepire nel pezzo quell'attimo, quell'enfasi che io adoro chiamare un attimo sospeso. Ho capito perché la tua ragazza non ha capito quando gli hai spiegato. Infatti ho provato a spiegarglielo. mi ha detto guarda, è un concetto che capirà, dai. Ho detto chiedo agli altri che forse è meglio. Allora, dall'America ritorniamo all'Inghilterra con gli Smiths, il quartetto di Manchester, dove c'erano Morris e Johnny Marr, la disco Meet Is Murder del 1983 con la canzone I Want The One I Can Have. On the day that your man traveled to I want the one I can't have. Gli Smiths sono una fotografia dell'Inghilterra di quegli anni e nonostante tutto continuano a fare proseliti. Sì, soprattutto la chitarra e la voce lamentosa che trasmettono tantissime emozioni hanno un'ironia dolente di quegli anni, no? Ricordiamo che era... vorrei dire che comunque hanno ispirato band come i Blur, i Radiohead, esatto. Gli Oasis. Esatto, cioè... Vengono comunque da un periodo di disoccupazione fortissima, l'epoca della famosissima Lady di Ferro, Margaret Thatcher, quindi da lì anche il loro abbigliamento un po' trasandato, un po'... E il sound rispecchia un po' anche questo. Ok, tra le vostre esperienze recenti c'è anche quella per alcuni concorsi musicali. Come sono andati e quale esperienza ne avete tratto? Guarda, i concorsi musicali noi abbiamo fatto tantissime esperienze, due a livello nazionale dove abbiamo parlato con esperti del settore che ci hanno insegnato un po' di cose. Bene. Come funziona? Come funziona? Diciamo che rimpiangiamo un po' gli anni che stiamo ascoltando su Rock Legends, dove... Chi faceva successo effettivamente... Era con la gavetta. Meritava. Era con la gavetta e lo meritava. Era gente capace. Adesso un po' di conoscenze, un po' di conoscenze fanno bene, senza far nomi, no? Non parliamo neanche dell'ultimo Sanremo. No, no, guarda. Adesso c'è un po' il concetto della musica fast food, no? Esatto. E allora chiudiamo la seconda parte con i Pretenders. Chrissy Hynde è ancora saldamente a capo di questa band che periodicamente riforma tra una pausa e l'altra tra alcuni suoi recenti impegni sociali. Dal disco Learning to Crawl del 1982 la canzone Back on the Chain Gang. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità e ascolteremo sei brani del nuovo disco dei Critical Project, Più di un attimo sospeso. Yeah! Wretched life of a lonely heart.